piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. È una pericolosa svolta tattica quella che proviene dai campi di battaglia della Siria e dell'Iraq, un'ultima trovata che toglie il sonno anche a chi si occupa della nostra sicurezza. Droni commerciali o addirittura fatti in casa, usati per terrorizzare e per uccidere. Questa, per esempio, è una versione commerciale, come se ne trovano tante in un qualsiasi rivenditore di piccoli aeroplanini senza pilota, e in giro ce n'è per ogni gusto e per ogni tasca. E da qualche tempo, secondo il Conflict Armament Research, che è un'organizzazione che studia e traccia i flussi delle armi in zone di guerra, l'ISIS è riuscito addirittura ad armare anche queste versioni commerciali di droni, caricandoli di piccole quantità di esplosivo o anche granate. E se anche nei prossimi mesi le nuove normative renderanno davvero più tracciabili, identificabili e controllabili i droni in vendita, resterà sempre la possibilità di costruirsene uno da soli. Non è difficile, anzi è addirittura facile. Facile per un ingegnere, forse? No, è facile perché internet è piena di tutorial che si possono seguire. Potrebbe addirittura portare qualcosa di pesante. Peso che potrebbe essere, per esempio, anche un carico esplosivo. Certo, procurarsene su un terreno di guerra non è difficile, ma non è impossibile neppure da noi. Se io vado ai confini con la ex Jugoslavia, un panetto di esplosivo me lo procuro o no? È possibile procurarsi del plastico, certo. Anche senza andare ai confini dell'ex Jugoslavia, robetta esplosiva si trova abbastanza facilmente anche alle nostre latitudini. Ricordate quando parlai per la prima volta di droni a questi microfoni? Mi sembra 3 anni fa. Cominciai a raccontare dei droni, la gente telefonava e dice: ma che è sta roba, di cosa stai parlando? Beh, oggi i droni lo sanno anche i bambini cosa sono. Papà, voglio il drone, quando vanno a fare la famosa passeggiata prosciutto al pepe o delle bottiglie in offerta speciale negli autogrill, c'è naturalmente un drone, costa poco, un drone giocattolo, ma c'è. Oggi tutti sanno cosa sia il drone viene naturalmente usato come strumento per dare le prospettive inaspettate ai vostri matrimoni. Non c'è fotografo di matrimonio che non possa fare una sorta di servizio senza l'inquadratura dell'automobile con il drone. La sposa che esce con il drone, diamogli una sdronata, è ormai il termine normale di chiunque faccia un documentario. Il drone è quella specie di piccolo aeroplano, elicotterino, giocattolino, che è tanto bello e divertente. Ho visto un gruppo di signore che andava a fare una passeggiata di trekking e poi a un certo punto chi organizza il trekking gli fa tirare fuori il drone, gli fa vedere quanto è bella la montagna vista dall'alto, e tutti abbiamo usato il drone. Beh, oggi il drone fa parte del quotidiano, in soli tre anni tutti sappiamo che esiste uno strumento che vola con un piccolo elicottero, un giocattolo, ci si può attaccare una action cam, una macchina fotografica, si possono fare le foto dall'alto, è bello vederlo, le vacanze con il drone, insomma il drone fa parte del nostro quotidiano. E il drone, come io anticipai qualche anno fa, è uno strumento anche che può essere usato in maniera impropria. Io la trasmissione la feci da Piazza Indipendenza, dissi: guarda, il Quirinale praticamente è qua dietro, in linea d'aria saranno 100 metri. Se avessi un drone, chiesi all'esperto allora, potrei buttare una bombetta sul Quirinale? Io dissi: ma no, queste cose non si fanno. Però questo in realtà potrebbe accadere. Nuovi droni la notte scorsa sui cieli di Parigi. I piccoli velivoli senza pilota sarebbero almeno 5, secondo fonti della polizia. È la seconda notte consecutiva di avvistamenti, avvenuti prima sopra l'ambasciata statunitense, vicino a Place de la Concorde, e poi su altri obiettivi sensibili, come l'Hotel des Invalides e la Tour Eiffel. Non sappiamo se si tratta di 5 droni o se è lo stesso avvistato in 5 luoghi in successione. Per ora la cronologia non è chiara. Potrebbe trattarsi di qualcuno che lo manovrava dalla finestra e che difficilmente aveva bisogno di muoversi se si trovava in una zona centrale. Oggi siamo di fronte al problema di riuscire a rivelare la posizione dalla quale questi droni sono pilotati. Questo è allarme a Parigi, ma a Roma diciamo abbastanza all'ordine del giorno, c'è sempre qualche turista che improvvisamente è preso dalla sindrome di Stendhal per le rovine romane del centro cittadino, acquista un drone, che ormai i droni li vendono i ragazzi del Bangladesh, quelli che vendono le pile con il raggio laser colorato, capito? O la palletta di pongo che si spiaccica per terra, c'hanno anche il drone, lo comprano e fanno un giretto. L'altro giorno hanno fermato una piazza Venezia, gli sembrava strano, dice, ma perché mi fermate, mi arrestate? Ma come? Un drone che va sopra l'altare della patria, la stessa cosa è successa al Vaticano, giorni fa, tempo fa, il drone comincia a essere qualcosa che inquieta. 800240024. Sapete adesso cos'è il drone? Ormai sono passati anni. Che uso fate voi del drone? Ve l'hanno chiesto i figli? Usate il drone con vostra moglie per guardarvi dall'alto? Usate il drone nella vostra professione? Dovete fare un battesimo, una cresima, un prediciottesimo? Dovete in qualche modo celebrare un momento epico della vostra vita? Fareste un servizio senza il drone? 800240024. Certamente alcune volte questi voli possono essere un pochino pericolosi. Spostiamoci in Germania, dove in un recente comizio la signora Merkel è stata, come dire, disturbata da un simpatico drone che è stato spedito sulla scena dai Piraten, il partito tedesco. Ha messo un po' in imbarazzo il suo servizio d'ordine. Amici, giro a voi la domanda: è giusto multare un tecnico che lavora con questi droni? E poi ancora, dovrà essere regolamentato il volo di questi droni che diventano sempre di più nei cieli delle nostre città? Io, ragazzi, ancora non ci credo, ma è successo per davvero. Sono uscito per fare il mio primo volo col nuovo DJI Spark e l'ho distrutto, o per meglio dire si è danneggiato in maniera irreparabile. In realtà, beh, la colpa è mia, e nonostante non sia il primo drone che ho avuto modo di pilotare, beh, forse ho dato troppa fiducia o probabilmente non ero perfettamente... È bello che poi con il drone uno ha l'impressione di poter pilotare. Nei felici anni 50, negli spavaldi anni 60, negli opulenti anni 80, c'erano quelli con gli aeromodelli, si sentivano dei piloti. Andavi con l'aeromodello, quello più semplice, con il fil di ferro che andava sempre in giro, quello un pochino più elaborato. Poi c'era l'elicotterino, adesso c'è il drone. Il drone assume in sé un significato quasi metafisico, epico. Il drone ricorda le guerre stellari, ricorda una macchina che appartiene ad epoche che ancora dobbiamo vivere, ma già è dentro la nostra vita quotidiana. Quanto voi fate uso di droni? Quanto il drone fa parte della vostra vita? Gabriele Ascenti, buongiorno. Buongiorno. Lei si è inventato un lavoro, 3 anni fa non esisteva. Lei ha un'azienda, Officina Multirotori, anche un bel nome, che assembla, ripara e vende droni. Esattamente, io mi occupo della costruzione su misura del drone, della riparazione, dell'assistenza e della vendita dei droni già costruiti. Comincia intanto a darmi la tipologia del cliente, perché qua tituba il pubblico, ma fra un po' cominceranno a chiamare perché si nascondono, qualcosa tengono nascosto, perché c'è anche un uso improprio del drone. Sto vedendo un SMS, ho un paio di droni, li uso principalmente per spiare l'intimità di alcune vicine procaci, cioè basta suonare il campanello, cara, e posso guardare la tua intimità, la vicina non chiederebbe di meglio, no, devi metterci il drone. Quindi chi è che comincia a servizi da lei questa nuova attività commerciale? Allora, i clienti spaziano dal ragazzino 14enne fino al pensionato incuriosito dalla tecnologia. Cosa ci fa? Ci guarda i cantieri il pensionato con il drone? No, vuole anche lui effettuare delle riprese, perché navigando su YouTube vede questi video effettuati da droni ed è molto incuriosito e affascinato. Diciamo per che tanto, il gioco è questo, l'assemblaggio fra il social network, la possibilità di mettere foto, raccontare la sua vita e farle anche particolari con il drone. Esattamente, perché si può mettere in mostra il proprio punto di vista dall'alto, anche perché come si fa normalmente con i telefoni cellulari che sono dotati di camera ad alta risoluzione, il drone è come se fosse un'estensione del telefono, lo posso mandare dove voglio, lo posso mandare lontano da me, quindi posso riprendere punti di vista che prima non era consentito. Senta, Ascenti, sarà un trend tipico di questa fascia oraria, sì, che è l'ora del soffritto, sarà un trend tipico del nostro pubblico. 2 telefonate ho ricevuto, un su WhatsApp: salve, abito vicino alle prostitute. Vabbè. E di solito la sera lo uso per vederle mentre prestano servizi ai clienti. Esiste questa possibilità maliziosa di dare il drone come una sorta, come una volta compravano il famoso cannocchiale Max che si comprava sull'Intrepido, era un cannocchialino di vetro ma la gente si metteva sul balcone per spiare i vicini. C'è l'effetto spionistico in chi acquista il drone? Sì, allora, può essere utilizzato anche per spiare, ma non è consentito, soprattutto in ambito privato. Quando vado a riprendere delle immagini o un video in ambito privato, questo non è consentito. Quindi bisogna stare molto attenti poi a perché è un reato vero e proprio. È un reato, esattamente. Quindi pubblicare su social queste immagini che riprendono persone che non avevano dato il consenso può essere anche reato, non solo, ma in questo caso se questo utente va su una strada per riprendere in questo caso le prostitute, commette un secondo reato, perché non può sorvolare per divertimento una strada con un traffico. Ma esistono anche l'uso di riprese notturne, perché immagino che lo faccia in orario non proprio in piena luce. Cioè, esistono anche le possibilità di fare riprese notturne con i droni? Sì, le nuove camere riescono anche a riprendere durante col buio. La qualità non è eccellente, perché comunque sono immagini molto sgranate, però con una luce molto, molto bassa si riesce comunque ad avere un'immagine abbastanza definita. Mi ricordo un altro ascoltatore, Amazon fece una pubblicità un paio di anni fa dicendo che avrebbe fatto le consegne porta a porta con il drone. Oddio, può funzionare nelle cittadine americane tutte carine col giardinetto davanti. Molla un drone qua al centro di Milano, poi voglio vedere. In città la vedo molto più dura, anche perché lo spazio aereo è interdetto al volo di droni. Ecco. Aspetti un attimo, Sergio, buongiorno, comincia a chiamare la prima fetta di dronisti di Radio 24. Sergio. Buongiorno, io non sono un dronista, lavoro per una società immobiliare e utilizziamo i droni per fare delle viste dei progetti futuri, quindi dell'inserimento dell'immobile all'interno di una città. Serve per dialogare con il comune. Cioè invece di andare a bussare alle vecchiette prima che schiattano, dice la casa la vende signora, gli mandate prima il drone? No, invece di bussare alle vecchiette per dire di fare delle foto dal balcone del vicino di fronte verso l'immobile che intendi sviluppare, adesso con la tecnologia del drone si riesce ad avere una vista a 360 gradi sull'immobile che prima non si riusciva ad avere. Ma è consentito dalla legge questo? Allora, finché il drone parte all'interno di un cortile privato e sale in verticale, più o meno è consentito. In effetti ogni tanto lo facciamo uscire un attimo per fare anche i prospetti esterni. So che non è più tanto consentito, bisogna fare un... Diciamo che al limite, le dico io, guardi, non si può. Se andassi nell'androne del mio condominio e facessi partire il drone, mi terrebbero delle secchiate d'acqua in testa, ma poi chiamerebbero subito l'amministratore, perché il drone passa davanti alle finestre, come stare lì? Sbaglio, Ascenti? Ma dunque, per effettuare delle operazioni specializzate, come sono in questo caso, bisogna seguire una procedura ben definita, ovvero frequentare un corso innanzitutto. Ci vuole un attestato, permesso, sì. Un attestato, effettuare una visita medica e avere una manualistica ben precisa del drone con cui si sta operando. Quindi è un'assicurazione, oltre a questo un'assicurazione per la responsabilità civile. Quindi c'è una serie di adempimenti necessari per operare, anche perché nel caso dovesse succedere qualcosa la responsabilità ricade sì, interamente sul pilota. Anche perché diciamo quelli un po' più di qualità, se si schianta in testa non è che faccia proprio piacere. No, perché pesano circa da un chilo e mezzo in su, quindi insomma è come un mattone pieno, diciamo, una mattonata. Sentiamo Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. E volevo intervenire. Lei è dronista o è semplicemente amatore della materia? Nell'uno nell'altro. Apprezzo il drone per quello che è uno strumento che può dare dei vantaggi tecnologici, ma sono stato terrorizzato all'inizio, quando sono sorti i primi droni, dall'idea che possono essere usati in maniera impropria e essere usati come una vera e propria arma. Chi impedisce a chiunque di mettere una bomba, una piccola bomba sul drone e indirizzarlo verso chiunque, al decimo piano, al settantesimo piano, alla piazza X e alla strada Y? I nostri legislatori si dovrebbero preoccupare di questo. Ma dominante, non è che si torna indietro. Il drone esiste, ha un'infinità di usi utili. Certo, è chiaro che c'è questo uso improprio. Ma può essere venduta a chiunque, deve essere venduto come si potrebbe vendere un'arma. Cioè un registro dei droni, un registro dei droni, un registro dei proprietari dei droni, di quelli, e farli comprare solo quando c'è l'autorizzazione per comprarlo. Beh, questo posso dire una cosa, anche una pistola è super registrata. Le pistole per fare gli attentati sono pistole che limano i numeri di matricola, e quindi anche per il drone accadrebbe la stessa cosa, sarebbe un mercato nero dei droni per uso improprio. Ascenti, posso fare una domanda tecnica? Sì. Quanto carico può tenere un drone? Così cominciamo. Quanto posso mettergli al massimo? Su un drone di quelli di qualità, diciamo. Che, ecco, un drone che posso comprare in un supermercato da 1,5 kg può portare fino a 500 grammi di peso di materiale, di qualsiasi mezzo chilo. Esiste mezzo un sistema all'inizio. Un sistema di sgancio, no, io potrei fare un sistema che col drone poi come aprissi un portello e sgancio quello che tengo attaccato al drone? Si può fare tutto, basta avere un minimo di fantasia e si può fare veramente tutto. Con Arduino lei programma, fa qualunque cosa. Ma non c'è neanche bisogno di Arduino. Si può una cosa meccanica, un servocomando meccanico che quindi a tutti gli effetti momento. È un drone, diciamo, di qualità un po' superiore, quelli che portano una telecamera. Penso può arrivare anche a 1,5 kg tranquillamente. Sì, 1,5 kg, ma ormai i grandi magazzini vendono anche droni da 3-4 kg senza limitazioni, ecco. E non esiste ancora un patentino per l'uso del drone o per l'acquisto del drone? Non esiste ancora, perché l'acquisto che si fa presso un negozio è per acquistare proprio un drone amatoriale, quindi per divertirsi, per uso ludico. Quando si diventa operatore, quindi si fanno riprese, si utilizza il drone per professione, allora si registra il drone, però non... Sì, bisognerebbe avere dei permessi, lo so, perché ho visto usarli, bisognerebbe avere dei permessi, si usano in centri abitati, bisogna chiedere ogni volta sì, il permesso. Per usare naturalmente... ad esempio il drone in centro abitato è necessario un attestato particolare, oppure un drone che sia inferiore ai 300 grammi. Sentiamo Sandro, buongiorno, lei per cosa usa i droni? Sandro? Sì, sono Sandro. Niente, volevo parlare della mia testimonianza dei droni. Lei in modo antesignano 3 anni fa ne ha parlato, io ne parlavo da 10 anni per l'utilizzazione dell'utilizzo dei droni in agricoltura. Per dare diserbanti, pesticidi? No, sì, lì non ci arriviamo adesso, ci arriveremo più tardi, ma più che altro per la mappatura delle aziende agricole e la visione dall'alto delle varie patologie, o dove manca dell'acqua, oppure c'è uno stress, oppure degli attacchi dei parassiti. E lei dove li acquistava i droni, quando ancora non se ne parlava in Italia? Esatto, ma io l'ho apprezzata quegli anni, poi non ho partecipato, ma non sono stato interpellato, però lei in modo antesignato ha parlato di una cosa che poi adesso tutti ne parlano, c'è l'inflazione, però ne parlano tutti male, cioè, però sono d'accordo con quello, con chi ha partecipato prima, cioè bisogna avere i permessi dall'aeronautica, bisogna seguire un corso, bisogna avere un patentino, cioè le cose sono fatte bene, poi come tutte le cose all'italiano un po' farraginose non ci si capisce più niente, ecco, quindi comunque lei usava in agricoltura uno strumento utile per capire quali sono, perché lei immagini di girare, non so, 100 ettari, moltiplichi 100 ettari per 10.000 metri quadri e invece di girare in mezzo ai campi, lei dall'alto vede dove c'è la patologia, dove bisognerebbe intervenire miratamente senza distribuire i vari prodotti su tutta la superficie. Se un parassita colpisce una coltura, e lo vede da lontano, lo fotografa, lo classifica, io sono un agronomo come entomologo, e capisce se è il caso di intervenire oppure di non intervenire, perché può essere se è scesa utile. La settima piaga delle cavallette. Esatto. Mi sta scrivendo un ascoltatore sempre su WhatsApp, dice su Facebook c'è un famoso esperto in scie chimiche di Sanremo che dice che sta usando un drone per prendere prelievi di scie chimiche. Beh, anche questo è un uso intelligente, così almeno dà un senso alla sua vita, l'esperto in scie chimiche, che le scie chimiche poi stanno a 3-4 mila metri d'altezza, ci vorrà un drone un po' pompato. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Se impigliato sull'ombrellone ed è malamente atterrato sui tavolini della caffetteria di Calmaggiore, per fortuna vuoti. L'insolito incidente stamattina poco prima delle 9.30, a precipitare un drone che un service stava utilizzando per effettuare delle riprese aeree del Duomo e di Piazza dei Signori per il film Leoni di Pietro Parolin con Neri Marco Re. Probabilmente a causa di interferenze l'apparecchio, quasi 90.000 euro il valore, è finito sui tavolini. Abbiamo visto questo drone partire dalla piazzetta e a un certo punto è come se avesse perso l'orientamento e è atterrato giusto sotto i nostri ombrelloni. Fortunatamente c'era una signora che si era appena alzata, prevedeva che forse arrivava. Sì, accade, ogni volta accade, il drone è schiantato anche in occasione di grandi avvenimenti sportivi, a un certo punto casca il drone, ma il drone è molto utile per fare delle riprese che altrimenti prima ce le sognavamo, ci voleva l'elicottero, quello vero. 800240024, stiamo riprovando a capire il livello di consapevolezza del drone a 3 anni di distanza, una trasmissione in cui ne parlammo e nessuno sapeva di cosa si trattasse. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Lei progetta droni? Sì, all'occorrenza sì. La sto ascoltando. Dunque, ho sentito prima la vostra trasmissione, sentivo alcuni utenti che parlavano di un'abilitazione. Non è un'abilitazione, è un brevetto a tutti gli effetti. I droni sono sistemi aerei a controllo remoto, quindi sono degli aeromobili a tutti gli effetti, di massa limitata, quindi piccoli, ma comunque sono oggetti che volano. È quasi un brevetto da pilota, eccoci, occorre. Chi lo rilascia questo brevetto? Sì, allora, ci sono diversi enti che lo rilasciano, sono supervisionati dall'ENAC. Sì. E per farlo, come diceva un utente, ci vuole una visita medica. Perché ci vuole una visita medica? Perché comunque stiamo pilotando un qualcosa che vola. Beh, soprattutto questo qua che costava. Se vola può cadere. Cade, se è grosso fa anche male, questo è il problema. Certo, se è grosso fa anche male. Ma allora, nel dettaglio, un drone di questi costi sicuramente appartiene ad un'azienda che avrà le sue precauzioni. Ma il concetto di base è questo. Prima cosa, dobbiamo dividere il lavoro dal gioco. Tutto quello che è ludico si fa in degli spazi che possono essere i campi di volo ad uso ludico, e sono anche attorno a Milano, ci sono dei posti molto interessanti, ben gestiti, che danno la possibilità a una persona di cominciare a giocare con questi giocattoli anche abbastanza costosi, che possono divertire e possono trasformarsi in una professione. Ma scusami se dico una banalità, ma è come una volta gli appassionati di aeromodelli avevano dei loro posti dove poter andare anche negli aeroporti. Mi ricordo c'è una zona dove andavano gli aeromodellisti, in un momento gli aeroporti piccoli, civili, che potevano usare i loro modelli senza interferire con nessuno. La stessa cosa dovrebbe valere per i droni. Parliamo degli stessi posti, sono ancora gli stessi posti. Il primo passo che si può fare passando dal ludico. È caduto, adesso lo riprendiamo. Intanto sento Gabriele Ascenti, ricordo titolare dell'Officina Multirotori. Sembra un nome dei tempi del Duce, Multirotori, bellissimo, nome antico. Multirotori perché è più di un rotore, sono certo. almeno tre solitamente, e quindi la denominazione risulta questa. In ogni caso, proseguo il discorso che stava facendo il suo collega. Sì. Ecco, si può far volare questi droni nei campi volo, quindi zone in regola, quindi non creano il volo dei droni, non interferisce con altri velivoli, quindi non è vicino solitamente agli aeroporti, a certo, zone. C'è il problema, chi compra il drone è per vedere cosa fa, filma l'erba del campo di volo alla fine. In realtà è molto noioso, è una noia mortale. Il drone certo, perché sono solo campi. È che per l'erba, per sicurezza, sono solo campi intorno, quindi. Oppure può cercare autonomamente un'area dove non si è abitata, quindi campagna. Sì, uno penso, se uno va in mezzo a un bosco probabilmente potrà usarlo. Probabilmente non c'è nessuno, l'importante è che sia a 150 metri dai centri abitati, questa è la cosa più importante. E che usi il buon senso, ovviamente, non lo faccia volare su persone. Ma diciamo che ancora, secondo me, c'è una zona di vacatio legis, è difficile stabilire, già abbiamo problemi per legiferare su cose che velocemente stanno superando la nostra immaginazione, ancora capire bene che cosa dare a uno che usa il drone è difficile. Però esiste questo problema dell'uso improprio, dell'uso malevolo o dell'uso terroristico, che è un rischio comunque. C'è questo rischio, per fortuna finora nel nostro paese non si è ancora visto nessuno operare in questo modo, solamente qualche turista, ecco, non ben informato del regolamento vigente in Italia. In ogni caso, per uso ludico in città è severamente proibito, ecco, non è possibile far volare i droni in città, sulle abitazioni e soprattutto sulle persone. Sentiamo un attimo, aspetta un attimo, Paolo, cosa deve aggiungere a quello che stiamo dicendo? Mi sembra interessante. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. No, io volevo solo precisare che l'equazione droni uguale terrorismo. No, uguale terrorismo, potrebbe essere usato, non è uguale. Sì, però non è mai stato usato. Il drone è stato usato per scopi bellici, solamente in aree di guerra. Sì, ma droni con apertura alare di 5-6 metri. No, non parlo di quelli, parlo di quelli governativi, parlo di quelli commerciali trasformati ad utilizzo bellico. E dove sono stati usati? I timori di tutti. E dove risultano? Sono stati usati, si vede su YouTube, in qualche teatro di guerra, però quello che mi premeva... Ma come? Usati come ricognitori? Come ricognitori. Non però per... Come, diciamo... Ma è una notizia non come... dire, disponibile a tutti, tutti sul web. Non come bombardieri, diciamo. Quello che volevo precisare è che l'MIT Boston mette questa tecnologia fra le 10 che hanno un maggiore impatto sulla vita dell'essere umano. Stiamo parlando di un impatto benevolo che è paragonabile a quello della ruota, del fuoco, di altre tecnologie che sono nel mazzo di queste 10. Beh, perché cambia molte prospettive. Cioè. Mi faccio cortesemente finire. Difendersi tratta da una tecnologia che arriva è, secondo il mio modesto parere, penalizzante per quelle che sono le potenzialità del paese. Sì, ma perché ho capito, mi faccia parlare anche lei, scusi, se no le chiudo la telefonata, non parla più, permetta, è un interloquire, non è un monologo, lei non ha un messaggio da dire, ho capito, lei dice se ne parlate male, danneggiata la tecnologia, ma io non ne parlo male, se esiste una persona lungi dal luddismo sono io, sono affascinato dal drone, dico che c'è questo segnale d'allarme, mi fa anche un po' sorridere perché oggi l'attentatore prende un camion e si butta sulla folla, costa molto meno e molta meno fatica. Esiste il fatto che è una tecnologia nuova che dà delle prospettive immense all'umanità, che però può creare qualche problema. Io posi subito questa domanda. Ancora nessuno l'ha mai usato e forse nessuno lo userà mai. Sta di fatto che comunque è possibile usarlo. Marco. Salve, buongiorno. Io sono, scusi l'espressione, incazzato nero. Ho sentito belle cose, i droni sono interessanti per fare ma delle per cose così poco, scusi, si incazza per così poco, per cosa? I droni. Già per motivo i droni. Io le dico, ero in vacanza con mia moglie, belli tranquilli, nella nostra bella residenza e tutto, e i droni venivano a fotografare, volare sopra di noi dalla mattina alla sera, di gente che poi non sono neanche riconoscibili, non è che c'è un numero che tu puoi prendere e denunciarli. Venivo lì a fotografare mia moglie che si prendeva il sole in topless. Perché era nuda sua moglie? Era in topless, ma non è quello. Ma perché io devo essere violato nella mia privacy, in casa mia, sopra il mio giardino, devo volare? E sua moglie quando vedeva i droni cosa faceva? Urlava e si copriva? Si copriva, ma non ha un senso. Io sono a casa mia, voglio stare tranquillo. E come si rispogliava? Non mi spieghi la dinamica. Come si rispogliava, riveniva il drone? Sì, ma guardi che non era uno. Ogni tanto ne passava uno. E sì, che girava voce. A 50 metri, a 30 metri d'altezza e stavo lì fermo. Ma lei non poteva farsi un giro con la riconoscimento? Perché non faceva un giro con la macchina e vedeva chi lo pilotava il drone? Perché io mi sono informato, addirittura il più piccolo stupido dicono così che ha 2 chilometri di lunghezza e 2 chilometri di altezza. Chi vado a prendere in 2 chilometri? Ma come mai si era sparsa la voce che c'era una signora in topless? Ma anche un'altra signora che anche lei dall'altro giardino si prendeva il suo sole in santa pace. Ma entrano in casa tua, fotografano. Ma poi quello è il brutto, che non c'è un numero di riconoscimento. Uno non può dire va bene, mi prendo il numero di riconoscimento 671 e vado a denunciarlo e sappiamo di chi è. Ma fino a che altezza si abbassavano? Ma a 30 metri, a 20 metri, io tanto vero se c'avevo fucile le tiravo già fucilate. Ma poteva comprarsi una fionda, con la fionda poteva provarci però. Magari. Una fionda con un bullone lo mette giù. Mi creda, per l'amor di Dio, i droni vanno bene perché ho sentito delle cose molto intelligenti e va bene. Ma ormai gli imbecilli ce l'hanno in mano i droni. No, le cose fanno male anche perché probabilmente avendo una telecamera potrebbero anche registrare le foto. Lei si ritrova le foto della moglie ignuda su internet e non ha nessuna colpa, è una violazione gravissima della privacy. La capisco, è uno dei problemi, naturalmente non è un problema che sconvolge l'umanità, però è vero, oggi ci sono persone che usano il drone per andare a fare i fatti degli altri. Passano come pesca a strascico in una zona residenziale dove normali sono persone che prendono il sole nel loro giardino come piffero vogliono, infatti però la rete piena di foto intime di persone che hanno atti anche affettivi, affettuosi o intimi, che stranamente vanno in rete, nessuno sa come mai, perché? Perché usano il drone. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta... Melog. Oggi è uno di quei giorni in cui ho rotto, schiantato il drone e mi dispiace tantissimo perché gli volevo bene, era un mio amico, no? E non l'ho fatto apposta, cioè praticamente stavo andando giù e quando la telecamera è rivolta verso di me i comandi sono a specchio, cioè se io vado, gli dico vai di là e schiaccio verso sinistra, lui va a destra, alla mia destra. Quindi io lo stavo facendo scendere ed ero abbastanza vicino a una siepe. Soltanto che, sì, ho detto, boh, aspetta che vado un po' più in là. Mentre che ho schiacciato in là, lui è andato dalla parte opposta, ha sbattuto contro la siepe, è caduto così, ha rimbalzato, bam, mentre che è caduto, la telecamera ha sbattuto per terra così, paf, e si è staccato il filo, stack. E questa è volata via. Ho perso tutto, ovviamente, tutte le riprese che avevo dentro e adesso devo mandarlo via, devo mandarlo a riparare. Mi dispiace, perché gli volevo bene. Mi dispiace. Però se finiva in testa qualcuno era peggio. Gabriele Ascenti della Multirotori, è un bel danno quello di questo ragazzo. Dipende, a volte non conviene neanche ripararlo. Soprattutto quando cadono in mare, ecco, con il sale. Quando cadono in mare è buttato ormai. È proprio da buttare, però qualcuno ci prova, viene qui e dice mi è caduto in mare, si può fare qualcosa, mi spiace, ma non sarà possibile. Pasquale, buongiorno. Buongiorno. La sua triste avventura. No, la mia triste avventura è questa. Io ho sentito prima su Radio 24 che avete parlato del drone che è caduto in Calmaggiore a Treviso. Sì, è lei. Io sono quello che aveva i tavolini. Ma pensi un po', racconti allora l'episodio, come avvenne, cos'era, pomeriggio, sera, mattina? No, era mattina presto, anzi erano circa le 9 del mattino. Alle 9 del mattino, i primi cappuccini della mattina, il primo spritz, il primo quartino. Il primo cappuccino a quell'ora, il primo cappuccino. Vabbè, da Treviso a quell'ora non è meraviglia. Sì, ma io sono rimasto colpito tanto dal drone che era veramente bello grande. È stato un bello schianto, è stato. Sì, perché il drone, loro non si sono accorti che facendo partire il drone da quella piazzetta sono proprio andati, diciamo, noi dietro lì proprio a 100 metri c'è la stazione dei carabinieri, probabilmente l'antenna dei carabinieri ha interferito. Ah sì, certo, col telecomando, c'è un segnale jamming di disturbo, esatto, chiaro, esatto. Hanno perso il controllo. Il drone si è come fermato a mezz'aria. E poi è andato in stallo ed è caduto sui tavolini. Probabilmente c'hanno un segnale loro per evitare che mandassero i droni sulla caserma. Esatto. Però devo anche dire che i ragazzi della società, che non ricordo il nome, sono stati molto attenti anche prima, dopo. Però ma lei cosa ha pensato quando ha visto questo attrezzo che si schiantava sul tavolino? No, ho pensato che la signora che era seduta è stata velocissima a spostarsi. Ah, perché ha rischiato di essere colpita? Certo, c'era una signora seduta che beveva il cappuccino. E lei ha visto il drone fermo a mezz'aria, non so cosa ha pensato, noi eravamo a 5 metri. A un UFO. La signora si è alzata dal tavolino, faceva un rumore infernale, perché era un professionale, non era un drone. C'è un ronzio forte. Molto bello, sì, esatto, era proprio quello del film Leoni di Neri Marcorelli. Diciamo. È stata una scena surreale, comunque fortunatamente non è successo nulla, ecco, a parte il danno. Sì, è andata bene. Molto bene. Sì. Bel drone, bella botta ha fatto. Un bel drone e una bella botta. Vabbè, abbiamo beccato un momento di cronaca pregnante, una testimonianza. Davide, buongiorno. Ciao, grande Nicoletti. Allora. Io a Washington, dove vado a lavorare spesso, sto vedendo per strada il test dei droni di terra, non quelli di Italia. Già sarà una novità che ancora non conosciamo in Italia. Come funziona il drone da terra? Allora, il drone da terra adesso è una specie, per figurarsela un po', l'elucidatrice di una volta dei pavimenti, sì, di marmo. Come gli aspirapolveri, così, quelli che fanno da soli, che puliscono da soli. Esatto, però quella forma è bombata, è un po' tondotte. Ma camminano sul terreno proprio? Esatto, si fanno i marciapiedi, attraversano la strada. In questo momento ci sono dei ragazzotti mascelloni che li guardano a vista, li seguono, per vedere se quali sono gli errori che compiono nel muoversi da soli. Ma quanto è grande, quanto è voluminoso il drone da terra? Ma 80 centimetri di profondità per una sessantina d'altezza e di larghezza. Sì, però funziona su strade come quelle americane in cui le macchine non parcheggiano in seconda fila. No, invece rilevano spazi, paletti, alberi, foglie, rami. Come l'aspirapolvere, l'aspirapolvere è quello, esatto, che si compra e pulisce da solo. E serviranno, si stanno sperimentando, perché serviranno per la posta a domicilio, per consegnare pacchi. Ah, sentiamo un po', Ascenti, lei ha sentito parlare di droni da terra? Di questo genere non ancora, che viaggiano in strada. Si apre un nuovo mercato comunque. Però so che ci sono dei droni, sono state fatte delle sperimentazioni su droni autonomi che viaggiano proprio sui terreni con delle ruote, tipo dei rover lunari, ecco. Possiamo immaginarle così, sono autonomi, hanno delle camere, hanno dei sensori e rilevano gli ostacoli e si muovono in ambienti, diciamo, dove non è sempre possibile andare di persona. Ecco. Quindi, diciamo, si sta complicando la dronizzazione della nostra vita. Sì. Ma non solo, ci sono anche ora, stanno uscendo nuovi modelli di droni subacquei. Ecco, mancavano i droni d'acqua, infatti me l'aspettavo, sì, che è molto più facile lì. È un piccolo, sì, sottomarino, piccolo sottomarino, oppure anche in superficie, restano proprio in superficie, fanno dei rilevamenti delle acque, prelevano dei campioni. Ma se uno ci mette una rete può anche usarlo per pescare? Si può lanciare la pastura, si può fare tutto. Pesca a strascico col drone? Sì, anche volendo, sì. Quindi avremo droni di terra, di cielo e di mare, sì, praticamente. Esatto. Mi fa piacere, abbiamo scoperto un nuovo versante comunque della dronizzazione, dei droni che volano, abbiamo già detto tanto, cominciamo a pensare che presto parleremo dei droni da terra e dei droni d'acqua. Grazie a tutti, alla prossima.